Focus Economia. Sette 08, nuova puntata di Focus Economia, ben trovati dalla redazione di Radio 24 e da Vincenzo Miglietta, puntata nella quale inevitabilmente troverà ampio spazio la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Renzi, tanti temi toccati dal Premier, con un bilancio con segno positivo quello di Palazzo Chigi, secondo Renzi, su argomenti quali riforme, ritorno alla crescita economica, lavoro e occupazione, ma anche poi gli esteri con i dossier più delicati, la Siria, la Libia, i rapporti con la Russia, la politica su questi scenari dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Vi ricordo allora subito il numero per i vostri SMS 349-238-6666, numero anche per i vostri WhatsApp. Immagino vogliate commentare le parole del Presidente del Consiglio, scriveteci anche sul sito di radio24.it nello spazio di Focus Economia. Tra le parole del Premier Renzi è ricorrente l'indicazione di un paese in ripresa, di una fiducia che è tornata tra le famiglie, e allora è proprio l'Istat oggi a misurare, tra le altre cose, questo indice che resta in effetti per consumatori ed imprese a livelli elevati, ma che sembrerebbe vivere un momento di stanca, e cercheremo di capirne i motivi. Legge di stabilità poi nella nostra puntata, vi ricordo la guida pratica, la manovra all'interno del Sole 24 Ore, 10 appuntamenti per approfondire i principali temi, oggi nuovi bonus per le assunzioni, domani le novità fiscali 2016 per le imprese. Quindi un focus su quello che viene considerato l'attore principale nella cosiddetta guerra dei prezzi sul petrolio. Parliamo dell'Arabia Saudita. Riyadh sta pagando apparentemente in prima persona la sua politica di non restrizione dell'offerta a fronte di una domanda internazionale debole. Gli effetti sono un deficit a 87 miliardi di dollari, lo dicevamo ieri, pari al 15% del PIL. E poi capitolo dei mercati, listini europei tutti in territorio positivo, complici anche le prime indicazioni con segno più arrivate dai futures di Wall Street. Restiamo allora su Wall Street, che indica un Dow Jones a più 0,95, Standard & Poor's 500 0,85, Nasdaq 0,80, indici europei Francoforte 1,55, Londra guadagna un più 0,54, Parigi più 1,40%, Madrid 1,10, a Milano il FTSE MIB in questo momento più 0,94, FTSE All Share 0,92, euro su dollaro 1,091. Questo è il nostro percorso di oggi, scriveteci, vi ricordo ancora 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia e anche lo stesso numero per i WhatsApp. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve, partiamo come al solito dalle materie prime. L'oro che sale dello 0,8% a 1.079 dollari l'oncia, petrolio più 2,2% a 37,6 dollari al barile. Fusioni ed acquisizioni, abbiamo dei dati molto interessanti. Il 2015, come era apparso chiaro, e parliamo in questo caso dell'economia internazionale, già quindi nelle ultime settimane del 2015 sarà un anno record per attività di fusione ed acquisizione a livello globale. I numeri saranno però ancora migliori del previsto. Stando ai dati di Dealogic, è stata superata per la prima volta la soglia dei 5.000 miliardi di dollari, di cui circa la metà negli Stati Uniti. In totale nel 2015 sono stati siglati poco più di 10.000 accordi grandi e piccoli a livello globale, poco meno dell'anno scorso, ma il valore complessivo ha aggiornato al rialzo il record del 2007, superando i 5.000 miliardi di dollari contro i poco meno 4.300 miliardi di 8 anni fa. e sempre per acquisizioni e fusioni. Nel 2015 a farla da padrone è stato il settore farmaceutico, con accordi per 723,7 miliardi di dollari già chiusi e annunciati per altri 713 miliardi, come per esempio quello da 160 miliardi tra Pfizer ed Allergan. Nella classifica delle fusioni più grandi dell'anno, alle spalle di questa fusione di cui parlavamo, ci sono quella da 117,4 miliardi tra Anheuser-Busch e Saab Miller e quella da 81,5 miliardi tra Royal Dutch Shell e BG Group. Ora l'Italia, il Tesoro, ha venduto tutti i 6 miliardi offerti in asta del bot semestrale con un rendimento in rialzo di 7 centesimi a meno 0,038%, venduti anche tutti gli 1,5 miliardi di CTZ agosto 2017 ad un tasso pari a meno 0,109%, minimo record. Ora i dati diffusi dall'Istat. Nel 2014 in Italia il tasso di occupazione è aumentato di 0,2 punti percentuali, portandosi al 55,7%, e nella fascia tra 15 e 64 anni, ma si tratta ancora di un valore ampiamente al di sotto del dato medio europeo, dove il 64,8% nella stessa fascia d'età risulta occupato. Fanno peggio di noi solo Croazia e Grecia. C'è poi una zona grigia, segnala l'Istat, dell'inattività, in cui rientrano 3.651.000 persone, in crescita rispetto a 3 anni fa. Si parla, in questo caso l'Istat parla, di quanti, pur classificati come inattivi, quindi fuori dal mercato del lavoro, potrebbero risultare impiegabili, come chi pur disposto a lavorare non è alla ricerca attiva di un impiego. E poi un dato sempre dall'Istat che sembrerebbe ovvio, ma è giusto sottolinearlo: l'occupazione sale al crescere dell'istruzione e passa dal 28% di chi ha solo il titolo elementare al 75,5% dei laureati, con l'eccezione dei giovani sotto i 35 anni, fascia d'età in cui risultano avvantaggiati i diplomati a causa dell'ingresso più recente nel mercato del lavoro di quanti hanno prolungato gli studi. Altri dati interessanti dell'Istat: il 71,2% delle famiglie proprietarie dell'abitazione in cui vive, tra queste hanno un mutuo, il 19,3%, quindi quasi una su cinque. L'indice del clima di fiducia, lo dicevamo nel nostro sommario iniziale, dei consumatori a dicembre segna una flessione, scendendo a 117,6 da 118,4 del mese precedente, quando aveva raggiunto il massimo storico. Nonostante il calo, dice l'Istat, la fiducia resta sui livelli elevati. In un anno l'indice è salito di oltre 20 punti. Dicembre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane scende a 105,8 da 107,1 di novembre, sempre fonte Istat, seppur in calo è il valore più basso da agosto. Si mantengono i livelli elevati, dunque le flessioni più forti si registrano per le costruzioni e per il commercio al dettaglio. E infine, sempre a fine anno, logicamente è tempo di statistiche, di bilanci. In questo caso la CGA di Mestre ci indica quali sono a livello merceologico i prodotti che hanno subito dei decrementi nel prezzo oppure degli incrementi. Partiamo dai prodotti che costano di meno: GPL auto e metano meno 17,8%, gasolio auto meno 12,3%, gasolio per riscaldamento meno 11,8%. Segno negativo 11,7% anche per computer, palmari e tablet, meno 10% per i cellulari, benzina meno 9,8%. Sono questi i prodotti che nel 2015 hanno registrato riduzioni di prezzo più importanti. Sempre poi secondo la CGA di Mestre invece i rincari maggiori ci sono stati tra le arance più 10,8%, la verdura più 9,7%, la fornitura d'acqua più 9,3%, raccolta acque di scarico più 8% e poi anche l'olio d'oliva più 6,1%. E con questa statistica della CGA terminiamo le nostre notizie in breve, ed ora tra breve il nostro primo tema. tema che dedichiamo alla conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. È con noi per commentare i tanti file che andremo ad ascoltare, quindi le parole del Presidente del Consiglio Renzi, il Vice Direttore del Sole 24 Ore Fabrizio Forché. Buon pomeriggio Fabrizio. Ciao, buonasera a tutti. Fabrizio, prima di far sentire il Premier ti chiedo subito, Renzi ha detto il paese si sta rimettendo in moto, si è rimesso in moto, l'Italia cresce, un tuo primo commento. Quando passi da una crescita negativa a una crescita positiva dello 0,8 sicuramente c'è stato un miglioramento, questo Renzi sicuramente ha ragione, i dati lo dicono, dicono anche i dati sul lavoro che vedono comunque questi 300.000 posti di lavoro in più. Certamente una crescita molto debole, molto fragile, ha bisogno ancora di essere molto sostenuta e speriamo che nei prossimi mesi ci sia un rilancio davvero più sostenuto che ci porti verso percentuali di crescita tali da poter generare occupazione. Per ora con lo 0,8 non crea ancora occupazione in maniera significativa. E allora partiamo proprio dalle percentuali illustrate dal Presidente del Consiglio Renzi, era previsto lo 0,7, siamo allo 0,8, dice Renzi, ascoltiamo questo passaggio. Il 2015 è andato meglio del 2014, è andato meglio delle nostre previsioni nel 2014, lo dice la realtà dei fatti, è stato un buon anno, è stato un anno che ha visto in particolar modo in alcune delle principali sfide che sembravano impossibili da vincere un segno che finalmente torna ad essere un segno positivo. Un anno fa qua mi interrogavate giustamente in una dimensione di preoccupazione su ciò che stava avvenendo sul Presidente della Repubblica e sulla situazione di crisi, si diceva l'Italia è in stagnazione perenne, l'Italia non tornerà mai al segno più, ho fatto una figura che può sicuramente incrociare il consenso ampio di questa platea, l'Italia è in stagnazione perenne, se noi guardiamo i dati di quest'anno possiamo vedere che il PIL torna a crescere, più 0,8, era previsto uno 0,7, vorrei ricordarvi perché la realtà dei fatti è più forte di ogni e qualsiasi opinione, che era il meno 2,3% nel 2012, meno 1,9 nel 13, meno 0,4 nel 14. Queste dunque le parole di Renzi, 0,7% era previsto, siamo allo 0,8%. Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, secondo te quale sarebbe un tasso di crescita che ci potrebbe far dire sì, l'Italia effettivamente è fuori dalla crisi, sicuramente superiore all'1%? Sicuramente superiore all'1%, io ti dico anche molto vicino al 2%, ora le previsioni del prossimo anno parlano di 1,6%, alcuni già l'hanno rivista a ribasso per la verità, perché il problema è che la tendenza proprio di questi ultimi mesi non è più così positiva come era a metà anno. C'è stato un momento in cui tra giugno, luglio, agosto e ancora settembre sembrava che la ripresa prendesse uno slancio maggiore, purtroppo gli ultimi dati degli ultimi mesi, gli ultimi 2-3 mesi parlano di un certo rallentamento, un certo raffreddamento della crescita, se così sarà io temo che anche l'1,5 per il prossimo anno rischia di essere una stima ottimistica, poi come dire tutti siamo consapevoli che bisogna fare invece il massimo sforzo per cercare di raggiungere quell'1,5 e magari il 2%, e lo stesso essere consapevole del governo, perché il governo ha fatto una manovra secondo noi giustamente espansiva, ha scommesso un aumento del deficit, una riduzione comunque rispetto all'anno scorso, questo va sempre ricordato, il deficit comunque si riduce rispetto al 2015, nel 2016, però l'Italia ha preso tutti i margini di flessibilità possibili per un punto di PIL, lasciando quindi aumentare il deficit rispetto al tendenziale, proprio per dare una spinta maggiore all'economia in una fase in cui la ripresa ha bisogno di essere sostenuta in tutti i modi, e su questo Renzi si giocherà gran parte della sua scommessa, perché è chiaro che come dire, il sostegno di cui ancora il Presidente del Consiglio gode nel Paese sarà tanto più forte se potrà rivendicare nel prossimo anno dei dati economici positivi, davvero positivi. Se invece saremo ancora qui a battagliare sui decimali, temo che tutto per lui sarà più difficile. Certo, Renzi ricorda quindi gli incrementi decimali, ma poi fa riferimento anche all'indice di fiducia di consumatori e di imprese. Andiamo ad ascoltare questo passaggio. C'è un indice di fiducia che è spaventosamente alto. Oggi ho letto dei flash di agenzia che crolla o cade l'indice di fiducia. Vorrei ricordarvi che l'indice di fiducia dei consumatori è 117,6 e delle imprese 105,8, leggermente in calo di qualche decimale rispetto al mese di novembre, che era stato registrato prima degli attentati di Parigi. Siamo a 117,6, un anno fa eravamo a 97,4. Oggi si dice cala l'indice di fiducia, un anno fa era 20 punti più basso e quando noi siamo partiti al 94,5. Insomma, c'è un paese che si sta rimettendo in moto. Un paese, secondo Renzi, che si sta rimettendo in moto. Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, secondo te quanto sono importanti ed indicativi questi indici di fiducia che noi comunque ricordiamo ogni volta che possiamo e che sono pubblicati? No, è giusto citarli, sono indici importanti perché è chiaro che la ripresa ci sarà nel momento in cui c'è una fiducia da parte delle imprese, dei privati, delle famiglie, perché poi insomma, il governo può fare molto, però il paese si riprende se le famiglie hanno fiducia e quindi tornano a consumare, se le imprese hanno fiducia e quindi tornano a investire. Purtroppo siamo un paese dove sugli investimenti pubblici si può fare relativamente poco, perché siamo un paese ad alto deficit con un alto debito, però va fatto, si può fare e questo il governo deve ricavare tutti gli spazi all'interno del patto di stabilità europea, ma poi deve anche saper dare alle strutture periferiche dello Stato soprattutto, e qui parliamo delle regioni e dei comuni, ripristinare la capacità di spendere in maniera positiva, quindi di investire su dei progetti veri, su dei progetti di crescita, su dei progetti infrastrutturali, non spesa a pioggia, non dilapidazione di risorse, molto spesso risorse che non vengono spese proprio per risorse europee che non vengono spese, per incapacità degli enti locali come di selezionare poi i migliori progetti e puntare su progetti cantierabili e quindi che possono partire. Quindi c'è un gran lavoro che si può fare sulla spesa, sulla buona spesa pubblica, cioè sugli investimenti pubblici, laddove si dovrebbe fare un gran lavoro poi per ridurre invece la spesa pubblica e produttiva. Ma certo, la fiducia è essenziale per far ripartire gli investimenti privati, e la crescita vera la fai con gli investimenti privati da parte delle imprese, la fai con i consumi da parte delle famiglie. Sui consumi purtroppo i dati sono sempre contraddittori, insomma, alle volte prendiamo speranza perché vediamo dei dati positivi, poi purtroppo settimana dopo settimana invece si affermano dei dati più negativi. Non c'è ancora una tendenza chiara in senso positivo, speriamo che si consolidi nei prossimi mesi. Ecco Fabrizio, Renzi poi era la conferenza stampa di fine anno, momento di bilancio, è andato a ricordare quanto fatto nel 2015. Io vedo dai primi sms e whatsapp che gli ascoltatori iniziano un pochino a criticare questa presenza del Presidente del Consiglio che viene giudicata evidentemente troppo presente nella trasmissione, ma noi non possiamo oggi non dare conto della conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio. Cerchiamo anche di vedere quello che può essere stato fatto e quello che invece è rimasto a livello di annuncio. Allora passiamo ad un primo tema, quello del Jobs Act. Ascoltiamo le parole del Presidente del Consiglio. Si diceva un anno fa il Jobs Act non sarà mai attuato e approvato, il tasso di disoccupazione è al 13,2%, adesso se guardate i dati dopo l'approvazione del Jobs Act il tasso di disoccupazione è ancora molto alto, troppo alto, ma è all'11,5%, 300.000 persone hanno trovato un lavoro. Quando trovate un ragazzo che uscendo da dove sei ti dice ti ringrazio perché c'ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ti rendi conto che tante polemiche sul Jobs Act e sulla riforma del mercato del lavoro hanno visto questo 2015 portare un elemento di chiarezza. Ci sono più tutele oggi in Italia, non meno tutele, e ci sono più posti di lavoro, non meno posti di lavoro. Io dico ancora non basta. Io non mi accontento, io non sono soddisfatto dei risultati, perché sarò soddisfatto dei risultati soltanto quando davvero l'Italia tornerà ad essere guida e la leader in Europa, perché questo accadrà. Piaccia o non piaccia, accadrà. L'Italia tornerà nei prossimi anni ad avere questo ruolo di leadership. E così Renzi sul lavoro, Fabrizio Forché, sul lavoro i numeri danno oggettivamente ragione al governo, poi è tutto un altro argomento se questi posti di lavoro in più sono qualitativamente all'altezza di chi è già assunto a tempo indeterminato da più anni, ma questo è un altro argomento. Ma sì, ora se ci soffermiamo sui singoli punti dell'attività del governo, poi magari veniamo anche ai punti dove l'attuazione non c'è stata come ci dovrà essere, mi riferisco qui alla riforma della pubblica amministrazione, ma non c'è dubbio che sul Jobs Act il governo Renzi ha corso, ha fatto una riforma, l'ha approvato rapidamente con i decreti attuativi, è andato su una direzione e come dire, non ha sbandato, ha portato a casa la riforma che voleva, che aveva annunciato e l'ha fatta in tempi brevi, secondo me con dei risultati positivi perché ha permesso comunque di dare un po' di dinamismo al mercato del lavoro, a regole del lavoro che erano particolarmente ingessate e nei dati si è visto indubbiamente nei mesi passati una spinta che si è prodotta anche in buona occupazione perché sono aumentati i contratti a tempo indeterminato, quelli a tutele crescenti in particolare, c'è stata sicuramente una spinta delle nuove regole, c'è stata sicuramente una spinta forse maggioritaria della decontribuzione, della contribuzione zero per chi assumeva appunto un contratto a tempo indeterminato. Questo comunque ha favorito una crescita di buona occupazione. Anche qui però va rilevato che negli ultimi mesi purtroppo c'è una piccola inversione in tendenza, tant'è che questo 300.000 posti in più che giustamente il Premier rivendica, che erano i dati Istat negli ultimi trimestri tra settembre e ottobre, già a fine ottobre, quando tu confronti il dato mese su mese, ottobre 2015, ottobre 2014, quel dato si ridimensiona fortemente, proprio perché da fine settembre i dati tra ottobre e novembre hanno visto una flessione anche sul fronte dell'occupazione. Questo è un dato un po' preoccupante e ora vediamo i dati di dicembre, se c'è invece un rimbalzo positivo. Vediamo certo i dati di dicembre e poi ricordiamo c'è tra l'altro anche un approfondimento sul Sole 24 Ore questi giorni, i 10 appuntamenti sulla legge di stabilità, tra l'altro oggi si parla proprio dei nuovi bonus per le assunzioni per il 2016, altro capitolo importante affrontato da Renzi è quello del mezzogiorno, le critiche arrivate al governo, Fabrizio se me lo confermi, è di avere inserito qualche misura solamente nell'ultima parte del percorso parlamentare della legge di stabilità, ma il Premier comunque ha rivendicato i successi su Pompei, sull'Ilva, i fondi per le terre dei fuochi, la Salerno-Reggio Calabria, il miliardo per le opere post-sisma. Sentiamo Renzi, poi un breve commento di Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore su questo punto e poi ci fermiamo per il meteo. Avete dimenticato il Sud? Vorrei farvi l'elenco dei provvedimenti per il Sud. Credito di imposta, terra dei fuochi, 450 milioni di euro. Bagnoli, commissariamento e partenza. Ilva, Salerno-Reggio Calabria, continuità territoriale, 1 miliardo per l'Abruzzo del post-sisma. Napoli, Bari, i tavoli di crisi aperti ovunque. Ho l'impressione che chi ci diceva di aver dimenticato il Sud si sia dimenticato delle accuse che ci muoveva. Fabrizio, il governo ha dimenticato il Sud o ha cercato comunque all'ultimo di intervenire? Ha cercato all'ultimo di intervenire, ma sicuramente molto lontano dai piani che aveva annunciato quest'estate quando si era parlato dell'emergenza del mezzogiorno. Il Presidente del Consiglio aveva fatto, o come dire, aveva annunciato appunto progetti molto più ampi di quelli che poi alla fine hanno trovato posto nella legge di stabilità. No, insomma, in un giudizio complessivo di quello che sta facendo il governo Renzi, certamente il meridione non è ai primi posti, questo è sicuro. Bene, Fabrizio Forché resta con noi, adesso il meteo e poi continuiamo a commentare la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Renzi. State ascoltando un programma offerto da Gamma Kia, l'unica con 7 anni di garanzia. Focus Economia. notizia 7.35, di nuovo insieme stiamo analizzando la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Renzi, e con noi il Vice Direttore del Sole 24 Ore Fabrizio Forché. Renzi ha parlato poi dei rapporti con l'Europa, ha detto l'Italia non dichiara la guerra all'Europa, noi chiediamo solo di far rispettare le regole a tutti, e poi i rapporti personali con la Merkel, sapete delle critiche che vi sarebbero state a Berlino nelle ultime settimane da parte di Palazzo Chigi, invece Renzi ha detto ha uno splendido rapporto personale con la cancelliera Merkel, ma io rappresento l'Italia e vorrei che la stampa prendesse atto che quando parla il premier italiano non è necessario scrivere costantemente che si sta lamentando dell'Unione Europea. Se con la cancelliera Merkel discutiamo di linee della politica economica europea, non stiamo attaccando l'Europa, la stiamo difendendo. Queste le parole di Renzi nei confronti della Merkel. Qualche ascoltatore mi accusa di fare propaganda oggi con questa parte dedicata al Presidente del Consiglio Renzi, logicamente è il Premier che parla, è necessario analizzare quanto detto. Tra gli altri passaggi del Presidente del Consiglio vi è quello dedicato alla scuola. Alcuni professori non hanno fatto domanda, assunzione sobillati da qualche genio, da chi gli diceva vi deporteranno, nessuno è stato deportato, se avessero fatto domanda sarebbero stati assunti nella loro regione e ora avrebbero un posto di lavoro a tempo determinato. Sentiamo allora questo passaggio di Renzi. Ci sono stati dei professori che non hanno fatto, su suggerimento di alcune forze sindacali, che non hanno fatto domanda per l'assunzione dicendo vi deporteranno. La parola deportati. Le parole sono importanti. Le parole sono importanti. Non soltanto nessuno è stato deportato, ma se quei professori avessero fatto domanda sarebbero stati assunti nella loro regione. Non l'hanno fatta, sobillati da qualche genio, e adesso non hanno il posto di lavoro a tempo indeterminato, e credo che sia una cosa che mi fa molto molto pensare e, se volete, anche molto molto male. Fabrizio Forché, sotto l'aspetto quindi dell'istruzione, della scuola, che giudizio si può dare? Ma io vorrei che quando si parla di scuola non si parla solo appunto delle assunzioni dei precari, ma si parlasse anche di investimenti in laboratori, in programmi orientati alle materie che davvero servono ai nostri ragazzi, l'inglese prima di tutto. La riforma in questo senso deve ancora svilupparsi. Un metro di giudizio importante è quello dell'alternanza scuola-lavoro, una cosa in cui io credo molto. Il modello tedesco, a cui noi molto spesso alludiamo come modello industriale, come modello di organizzazione dello Stato positivo, in realtà ha uno degli elementi forse più importanti che ne fa un modello positivo, è quello di alternare scuola e lavoro, di preparare i propri ragazzi al mondo del lavoro. Da noi si studia e poi alla fine non si trova un lavoro, in Germania si studia e lavora in alternanza e poi alla fine trovi un lavoro e trovi un buon lavoro. Per cui se su questo la riforma della scuola riuscirà davvero a fare passi avanti, secondo me è una di quelle innovazioni importanti proprio per tornare alla crescita, all'occupazione, cioè poi ai dati macroeconomici che tutti guardiamo come elementi, diciamo, certo, positivi per l'economia del paese. La scuola fa parte di un sistema che è quello della pubblica amministrazione, e qui vengo incontro magari ai tuoi ascoltatori che si lamentano se la trasmissione è troppo dedicata a Renzi. Facciamo una critica a Renzi, diciamo che sulla pubblica amministrazione, che è la chiave e di volta davvero per chi vuole cambiare il paese, su questo il governo ancora ha dei ritardi, perché è vero che è stata approvata la legge delega, ma come aveva detto il Presidente del Consiglio, come ha detto Renzi in conferenza stampa, i decreti attuativi ancora non se ne è visto uno. Ora sembrano finalmente pronti per gennaio, però è chiaro che è lì che si compie la rivoluzione di Renzi, è lì che davvero sblocchi un paese, nella capacità di incidere nei meccanismi decisionali della pubblica amministrazione, nella burocrazia, perché se tu non rompi quei blocchi che sono all'interno dello Stato, all'interno della pubblica amministrazione, è inutile parlare di investimenti, perché poi non riesci a spendere i fondi che magari hai, i fondi europei, ma non li riesci a spendere, che sono bloccati dalla pubblica amministrazione, da una burocrazia che non funziona, che non sa selezionare i progetti giusti. E così anche l'attività privata, ma quanti intralci, da quanti anni sul Sole 24 Ore raccontiamo degli intralci che frenano gli investimenti industriali in ogni territorio d'Italia. Quindi quella è davvero la riforma chiave e su quella per ora i passi sono stati molto lenti da parte passi lenti era. E tra l'altro mi collego a un WhatsApp al 349-238-6666 di un argomento che parlavamo poco fa. Peccato che il Jobs Act non sia stato applicato al pubblico. Fabrizio, poteva essere anche questo uno scatto in più verso quell'amministrazione più efficiente o è proprio un altro argomento? No, io questo non credo, ma qui bisogna tenere conto poi delle regole. Nella pubblica amministrazione si entra per concorso, ci sono delle regole diverse, non puoi applicare le regole che valgono nel privato ma banalmente nella pubblica amministrazione. Nella pubblica amministrazione devi fare delle norme diverse, però delle norme che poi portano allo stesso risultato, che è quello che chi non lavora va licenziato. Purtroppo oggi nella pubblica amministrazione sappiamo che questo non viene fatto, a prescindere anche dalle norme, perché indubbiamente già all'epoca di Brunetta alcune norme furono fatte, poi non sono state applicate, sono state applicate male. Ora il governo dovrebbe rafforzare appunto quei decreti attuativi che sono in arrivo, che riguardano anche appunto le regole del pubblico impiego, dovrebbe rafforzare la possibilità da parte dei dirigenti di licenziare i dipendenti che non lavorano, i cosiddetti fannulloni. Vediamo, perché le regole bisogna scriverle poi davvero in quella direzione e poi ci vogliono gli esigenti che le applicano, perché molto spesso poi al di là delle regole c'è un problema di persone e la pubblica amministrazione è piena di dirigenti che per ragioni di consenso magari si tengono tutti e non licenziano nessuno. Certo, e adesso Fabrizio facciamo sentire un passaggio che alimenterà ulteriori sms critici nei confronti nostri o forse del Presidente del Consiglio, laddove Renzi se la prende comunque con i gufi e con il populismo e dice la politica batte il populismo 4-0. Un paese solido, stabile, un importante settimanale ha scritto, beh, e se fosse l'Italia il paese più stabile d'Europa? Ci siamo rimasti tutti abbastanza sorpresi, ma è così. L'Italia torna ad essere quello che deve essere, un grande paese che può guidare la discussione e che può in qualche misura segnare, lasciatemelo dire, la vittoria della politica contro il populismo. Se dovessi fare un titolo direi politica batte populismo in Italia nel 2015, 4-0. 4-0 per Renzi, secondo il Presidente del Consiglio. Velocemente andiamo ai temi che poi sono più cari al Radio 24, al Sole 24 Ore, che sono la tassazione, le pensioni e in ultimo affronteremo il tema delle banche e le parole di Renzi nei confronti delle banche insieme a Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Sentiamo allora subito Renzi e il taglio delle tasse. Non entro nel merito, sapete che abbiamo già individuato un percorso che vede IRPEF, IRAP, IRES e la questione delle pensioni come assi di intervento, ma non sarebbe serio da parte mia darle adesso i dettagli, intanto perché non sono ancora stati definiti, se non con la programmazione triennale della legge di stabilità, ma insomma la discussione vera sarà nell'estate del 2016. Se Piercarlo, che è in non so dov'è adesso in questo momento, spero per lui che non stia guardando la conferenza stampa, sente che sto già facendo i tagli di tasse del 2017, mi torna a Roma sconvolto, quindi va benissimo così. Anzi, fatemi ringraziare il ministro Padoan, perché la collaborazione tra di noi è una collaborazione davvero significativa, a parte gli aspetti calcistici, e credo anche doverosa, perché in passato c'è stata qualche tensione tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche tra di noi naturalmente discutiamo, abbiamo opinioni diverse su alcuni punti, ma la solidità delle istituzioni presuppone che ci sia innanzitutto una solidità del governo. Quanto alle tasse che taglieremo nel 2017, cioè che decideremo di tagliare nel 2016, lo scopriremo soltanto nel 2016. Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, sul fronte delle tasse, beh, mi sembra che comunque la legge di stabilità abbia messo in moto qualche cosa, forse l'unica nota stonata è il rinvio dell'IRES. Sì, su questo tema Renzi è stato insolitamente prudente, mi viene da pensare è una prudenza necessaria nel momento in cui già in primavera sei sub giudice in Europa sulla flessibilità che hai preso con questa legge di stabilità, e quindi forse è meglio non mettere altra carne al fuoco e parlare di nuovi tagli fiscali laddove già l'Europa ha almeno qualche perplessità sulla flessibilità che ci siamo presi in serie di leggi di stabilità. L'IRES è stata rinviata all'anno prossimo, era già stata inserita come opzionale, diciamo, in una prima fase della manovra, ma solo si era capito che più probabilmente sarebbe stato rinviato il taglio al 2017. Si è preferito puntare con questa legge di stabilità sull'abolizione della tassa sulla prima casa. Qui, come sappiamo, i pareri sono discordanti. Io continuo a ritenere che ogni riduzione fiscale che puoi fare in questa fase conviene metterla sempre sul lavoro e sulle imprese, perché è lì che si genera crescita, è lì che si genera occupazione. E tuttavia è anche vero che c'è una parte di paese, ci sono anche economisti importanti che ritengono che anche invece andare a eliminare una tassa come quella sulla prima casa sia significativa in un paese che è fatto comunque di proprietari di immobili, in un paese dove l'edilizia è un'industria particolarmente centrale, particolarmente importante proprio ai fini della crescita, e quindi togliere la tassa sulla prima casa può avere anche effetti benefici sul mercato immobiliare, sul mercato dell'edilizia. Pareri, come dire, tutti legittimi. Indubbiamente Renzi sta proseguendo con un percorso di riduzione fiscale compatibilmente con quello che è l'equilibrio dei conti pubblici, che è sempre, certo, sempre molto, molto difficile. Fabrizio, adesso diamo la linea alle strade in diretta, approfitto poi veramente di altri due minuti della tua disponibilità e affronteremo il tema più importante, almeno questi giorni, quello delle banche. Focus Economia. Sette Focus Economia, ancora insieme con Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Insieme stiamo cercando di andare al di là delle parole del Presidente del Consiglio Renzi nella conferenza stampa di fine anno, cercare di capire quanto vi è di vero nel bilancio che è stato portato da Palazzo Chigi oggi nella conferenza stampa di questa mattina. Abbiamo parlato del taglio delle tasse, Renzi poi ha affrontato anche le pensioni. Noi non tocchiamo le pensioni degli italiani, ovviamente se ci saranno da fare degli interventi sulle pensioni d'oro saranno fatti dopo un lungo dibattito che sarà contraddistinto da grande trasparenza. E poi, lo avevamo annunciato prima della pausa, il tema delle banche: chi ha subito danni o è stato truffato, e non sono moltissime le persone, dice Renzi, deve sapere che lo Stato è dalla sua parte, noi faremo di tutto perché possa avere indietro quello che ha perso. Queste le parole del Presidente del Consiglio. Ascoltiamo un passaggio della conferenza stampa. Noi abbiamo a cuore il destino di quelle persone che hanno subito dei danni, perché chi ha subito dei danni, chi è stato truffato, deve sapere che lo Stato è dalla sua parte. Chi ha subito un danno perché è stato truffato deve sapere che noi faremo di tutto perché possa riavere indietro i suoi soldi. Detto questo, la verità dei fatti impone di dire che non c'è rischio sistemico per le banche italiane, che le banche italiane sono molto più solide di banche di altri paesi, che non cambierei il sistema bancario italiano con quello tedesco nemmeno sotto pagamento, e che se ci sono delle questioni aperte le affronteremo senza chiedere alcuna deroga all'Europa. Noi non abbiamo chiesto alcuna deroga all'Europa, abbiamo soltanto replicato a un commissario che aveva detto ha scelto l'Italia, mostrando una lettera che lo stesso commissario aveva firmato. Punto. Ma non c'è rischio sistemico in Italia. Ecco Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, che è con noi. Quest'ultima frase mi sembra al momento la più interessante: non c'è nessun rischio sistemico, è così? Credo che sia così, è giusto affermarlo, è giusto sottolineare questo aspetto, perché noi rischiamo che in una polemica che è molto strumentale, molto politica, sta diventando sempre più politica, poi alla fine chi ci rimette sono proprio i risparmiatori italiani, perché se noi mettiamo in discussione tutto quello che è il sistema istituzionale che ruota intorno al risparmio degli italiani, il danno alla fine è per i risparmiatori, non è per la Banca d'Italia, non è per la Consob, non è per il governo, è per chi quei soldi li ha nelle banche italiane. banche italiane sono solide, c'è un problema grave di sofferenze bancarie, ma che il sistema italiano sia solido lo dimostra il fatto che anche nel caso di queste quattro banche il sistema era pronto a intervenire, con il fondo interbancario si sarebbe risolto il problema senza che nessun risparmiatore italiano avesse potuto subire alcun tipo di danno. Se non è stato possibile l'intervento è perché ci sono delle nuove regole, ci sono delle regole europee che fanno sì che in caso di difficoltà delle banche scatta la procedura cosiddetta del bail-in, e quindi alcuni risparmiatori, che poi è discutibile sono risparmiatori o investitori, perché chi compra obbligazioni subordinate è più un investitore che un risparmiatore, ma comunque questi soggetti sono chiamati in causa a contribuire di tasca propria al fallimento della banca. Queste sono regole europee. Il sistema italiano era in grado di intervenire, non ha potuto intervenire come tradizionalmente certo. In passato interveniva, perché erano scattate nuove regole e l'Europa non te lo faceva fare. Per cui questo è un punto molto importante che va sempre sottolineato. Poi forse qualche ritardo da parte del governo nell'avere la consapevolezza di quello che significavano queste nuove norme c'è stata. Nella introdurre le norme del bail-in in Italia forse andava sicuramente fatto un piano informativo diverso, far capire ai risparmiatori italiani cosa cambiava col bail-in. Era qualcosa di molto importante, noi tutto le 24 ore l'abbiamo fatto, abbiamo dedicato grandi spazi, però noi siamo un giornale e probabilmente bisognava anche forse chiedere una fase di transizione più lunga, però dobbiamo essere tutti consapevoli che le regole che stiamo andando a applicare sono regole europee e quindi in questo caso non c'è una responsabilità diretta del governo, non c'è una responsabilità diretta del sistema bancario. Il sistema bancario era pronto a intervenire come aveva sempre fatto in passato, no, questa volta ci sono nuove regole che non te lo consentono. Quindi non ci sarebbe nessun rischio sistemico, dice il Presidente del Consiglio Renzi, dall'altra parte garantisce chi ha subito danni riavrà quanto perso, questo per quanto riguarda coloro che sono stati truffati, e poi farei ascoltare l'ultimo passaggio per questo blocco del Presidente del Consiglio Renzi, laddove dice in Italia troppe banche di paese, poi ascoltiamo il commento di Fabrizio Forché e andiamo poi alle borse. Il punto vero è che in Italia ci sono state troppe banche, in alcuni casi persino di paese, e in un modello come quello guidato dall'Europa le banche di paese ce la fanno meno rispetto al passato. E se vogliamo dare un aiuto ai risparmiatori e agli investitori, risparmiatori e investitori sono due categorie, noi dobbiamo avere il coraggio di dire che bisogna fare provvedimenti come quello del decreto delle banche popolari. Vorrei che andaste a rivedere le dichiarazioni in Parlamento sul decreto delle popolari di alcune delle forze politiche che oggi ci accusano di chissà quali misfatti sulle questioni bancarie. È proprio il sistema bancario quindi oggetto di tante critiche, prima il decreto di salvataggio delle quattro banche, precedentemente il passaggio delle popolari a SPA, ora Renzi torna a dire ci sono troppe banche anche di paese, insomma un sistema bancario, quello italiano, che è ancora da ridefinire secondo te, Fabrizio Forché, o può andar bene così? Ma insomma Renzi allude direttamente alla riforma del credito cooperativo, che è l'altra riforma che riguarderà il sistema bancario, che è in arrivo, tutti sappiamo che probabilmente il governo la vedrà all'inizio del prossimo anno, una riforma necessaria, perché è vero quello che dice Renzi, insomma in un mondo che è cambiato le strutture troppo piccole probabilmente non hanno più ragion d'essere, è giusto che si creano almeno delle holding all'interno delle quali le piccole banche possano essere comunque, possono ammortizzare le proprie difficoltà e dare più garanzia ai risparmiatori che hanno i soldi in quelle banche. Renzi ha detto anche un'altra cosa che secondo noi è molto importante, un grande lavoro va fatto sulla trasparenza dei prodotti che vengono venduti in banca. Certo. Il testo unico della finanza prevede che l'operatore bancario agisce nell'interesse del risparmiatore. Purtroppo noi sappiamo che questo non sempre è vero. Qualche volta il funzionario di banca si vende dei prodotti perché più nell'interesse della banca vendersi che nell'interesse del risparmiatore. Ma almeno certo. Nel farlo deve avere delle regole molto stringenti di trasparenza, deve avere dei prospetti che in una pagina ti dicono in maniera chiara il rischio che tu stai correndo facendo quell'investimento. Se ti fanno firmare 28 documenti, tu non hai nessuna... Questa trasparenza non c'è, certamente. Quanto stai rischiando, quanto stai rischiando i tuoi soldi. Certo, questo certo. È un passaggio importante. Tutti sembrano condividerlo, ma poi non si capisce chi deve fare il primo passo. Questa è invece una riforma vera, una riforma da fare. Grazie a Fabrizio Forché per la sua disponibilità, vice direttore del Sole 24 Ore. Passiamo ora alla giornata in borsa. Velocissimi per il tempo che stringe, è con noi Ceo Condina, collega di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Ceo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Come è andata allora oggi? Mi sembra comunque listini tutti in terreno positivo. Ma assolutamente sì, le borse venivano da alcune sedute incerte, oggi invece la chiusura buona di Tokyo, che è stata resa nota ovviamente in mattinata, e poi l'apertura, la seduta ben sostenuta di Wall Street, che ora guadagna un punto percentuale, ha fatto bene alle borse europee, che hanno chiuso tutte in deciso rialzo. Milano più 1,37%, hanno fatto meglio Parigi più 1,8% e Francoforte, che ha sfiorato i 2 punti percentuali di rialzo. Per guardare un po' l'andamento dei principali settori a Piazza Affari, molto bene la moda con Moncler, che ha chiuso più 3,4%, e Yux Net-a-Porter Group più 3,1%, acquisti sostenuti anche su Prismian più 3%, che diciamo ha cavalcato la commessa ottenuta in Bahrain e notificata ieri per 50 milioni di euro. Ecco Ceo, e poi se c'è la tua disponibilità riprendiamo il discorso anche dopo il giornale radio, quindi Prismian vive anche nel terreno positivo grazie a questo nuovo contratto da 50 milioni in Bahrain. Assolutamente, per un sistema in cavo interrato ad alta tensione, una commessa diciamo di un valore non elevatissimo, però comunque in una borsa come quella che c'è a fine anno con volumi sottili ha stuzzicato gli operatori e ha spinto a rialzo il titolo. Per quanto riguarda Fiat, chiamiamo l'FCA, che segna un più 1%, credo si viva ancora sull'influsso dello scorporo di Ferrari. Certo, c'è soprattutto l'attesa per lo scorporo di Ferrari, che avverrà il prossimo 4 gennaio, ciò ha favorito sia Fiat, che come detto è chiuso in rialzo dello 0,77%, sia la controllante Exor più 2,7%. Su Fiat comunque c'è sempre l'attesa per un possibile consolidamento a livello globale, in particolare in America. Ceo, ci fermiamo qui, diamo spazio al giornale radio e ci risentiamo tra qualche minuto. Audiogrammi speciale Natale. I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio. Giovedì 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete l'emozione di una grande storia, come mai l'avete ascoltata. Vi aspettiamo giovedì 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi, in radio come al cinema. State ascoltando un programma offerto da Gamma Kia, l'unica con 7 anni di garanzia. Focus Economia. Ripartiamo dalle borse, ancora con noi e lo ringrazio Ceo Condina, il collega di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Ceo, parlavamo delle borse europee, bene oggi, ricordiamo l'indice FTSE MIB più 1,37%, All Share 1,32%, positive anche le altre borse europee, Wall Street Dow Jones più 0,89% in questo momento, Standard & Poor's 500 0,81%, quindi in terreno positivo. Dicevamo di FCA, che ha segnato un più 1% in funzione dello scorporo di Ferrari. Giornata positiva c'è anche per Exor, che segna più 2%. Assolutamente, come dicevamo, Exor è la controllante di FCA, su entrambe le aziende c'è un po' l'attesa del mercato per un possibile consolidamento nel settore auto mondiale, qui il target è quello ovviamente di General Motors, che tuttavia fino ad oggi ha sempre rifiutato le avance di Fiat Chrysler. E restando CEO nel settore, chiamiamo così, dell'automotive, dell'automobilistico, Pininfarina più 8,4%, questo perché ancora nella scia della vendita agli indiani? Sì, diciamo che qui il mercato ha un trend abbastanza chiaro. Come noto, gli indiani hanno deciso di lanciare un'OPA a 1,1 euro, un'OPA ha una quotazione piuttosto bassa. Infatti subito dopo l'annuncio, che è stato ormai più di 2 settimane fa, il titolo è subito crollato, era arrivato quasi a 1,5 euro. Di lì poi gli indiani hanno comunque reso noto l'intenzione di avviare un rilancio importante dell'azienda con un'iniezione di capitale di 20 milioni, un'iniezione di capitale che dovrebbe consentire un recupero della redditività, e di qui il lungo rally di Pininfarina, che da circa 1,5 euro ha chiuso oggi a 3,8 euro, oggi ha recuperato un altro 9,7%. Cioè, guardiamo anche fuori dal listino, il più 2% di Carraro con l'accordo, quindi effetto dell'accordo concluso con gli americani di John Deere. Sì, un accordo di fornitura per Carraro, un'intesa che vale 20 milioni di euro, che per una diciamo un'azienda medio-piccola come Carraro è un accordo molto importante, e quindi il titolo oggi è stato il migliore di Piazza Affari, più 24,4%. Ricordiamo che qui influisce anche la recente ristrutturazione del debito da parte di Carraro di 260 milioni. Che ovviamente conferisce maggiore fiducia agli investitori sul futuro dell'azienda. Grazie a Ciao Condina, collega di Radio Core, il Sole grazie 24 ore. Grazie, chiudiamo lo spazio dedicato alle borse, cambiamo argomento e parliamo dell'Arabia Saudita e del petrolio. Abbiamo visto, ormai è tanto tempo, se ne è parlato tantissimo, del prezzo sempre in discesa negli ultimi mesi, oggi probabilmente il primo giorno che non ha subito variazioni con segno negativo, alle spalle di tutte le strategie per quanto riguarda la quotazione del petrolio. Da molti viene indicata l'Arabia Saudita, che nonostante sia la prima a perdere in termini economici con un barile così basso, continua ad alimentare l'offerta nonostante la domanda internazionale resti molto debole. Evidentemente al di là del puro prezzo del petrolio vi è poi tutto ciò che si innesca nelle strategie geopolitiche internazionali e soprattutto di quell'area del mondo. Chi meglio di Alberto Negri, collega del Sole 24 Ore, per parlare di tutto ciò? Buon pomeriggio, Alberto. Buon pomeriggio a voi. Alberto, l'Arabia Saudita, nero su bianco, perde soldi da questa sua strategia nei confronti del prezzo del barile. Il deficit è schizzato a 100 miliardi di dollari, ossia il 16% del PIL, quindi per quanto l'economia dell'Arabia Saudita è veramente molto forte, comunque sono segnali in controtendenza. Cosa c'è dietro a questo atteggiamento di voler insistere con questa offerta comunque del petrolio sempre ferma? Ma sostanzialmente l'Arabia Saudita ha imboccato un anno e mezzo fa una politica dei prezzi di un certo genere, ha preferito proteggere le proprie quote di mercato acquisite nel tempo abbassando le quotazioni del petrolio piuttosto che puntare sull'aumento dei prezzi, per due motivi essenzialmente. Uno, per in qualche modo contrastare la concorrenza dello shale oil americano, e l'altra per in qualche modo cercare di colpire anche i suoi nemici nella regione, in primo luogo l'Iran, ma poi anche la Russia, che è alleata di Teheran nella guerra in Siria, e poi anche Yemen. Insomma, in poche parole, i sauditi hanno imboccato una strada che ha usato l'arma del petrolio, come dire, in senso contrario. Questa del Medio Oriente è l'unica guerra degli ultimi 30 anni in cui il prezzo del petrolio è sceso invece di salire. Ecco, giustamente Alberto, ricordavi anche una strategia economica nei confronti dell'Iran. A brevissimo, questione di settimane, vi dovrebbe essere il completo via libera al ritorno sul mercato anche del prodotto iraniano, quindi intorno al petrolio, lo abbiamo letto più volte nei tuoi articoli, si gioca la nuova guerra di questo millennio. Ma sì, ed è curiosamente una guerra a ribasso, non a rialzo, perché in questi anni di sanzioni in cui per esempio l'Iran era fuori dal mercato. L'Iraq negli anni passati aveva prodotto poco e durante gli anni 90 per 10-12 anni è stato sottoposto a sanzioni, non dimentichiamocelo. Il mondo aveva imparato a vivere anche con un petrolio che faceva su e giù con i prezzi, perché adesso a $35, ma alla fine degli anni 90 toccò anche i $10 al barile e per poi risalire e arrivare oltre i $100. Ma si capisce molto bene che quest'arma petrolifera è un'arma che viene usata con strumenti geopolitici più che economici e commerciali, perché poi danneggerà tutti e sta danneggiando anche la stessa Arabia Saudita, che è entrata, come dire, in austerity per la prima volta forse certo. Nella sua storia in molti decenni. Oggi c'erano in Arabia Saudita le code per fare benzina, perché da domani aumenterà da 0,16 centesimi a 0,24 centesimi al dollaro, che per noi è un nulla, è chiaro, ma per i sauditi è un segnale negativo. Tempi che cambiano. Certo, un 40% in più per noi sarebbe nulla, ma per loro, abituati a prezzi così bassi, sta danneggiando la stessa Arabia Saudita e danneggia l'alleato storico che sono gli Stati Uniti, per cui c'è anche una guerra del petrolio tra due alleati storici. Ma sì, ma in realtà l'Arabia Saudita è un paese che sta dibattendosi in una situazione assai difficile, no? Perché l'accordo sul nucleare iraniano del 14 luglio scorso, naturalmente, cui tu accennavi prima, ha liberato un po' Teheran dalle catene in cui si trovava. Prima dicevi appunto che tra poco verranno tolte le sanzioni, si pensa a metà gennaio, ci sarà il famoso Implementation Day in cui appunto verranno cancellate molte delle sanzioni più importanti. E poi soprattutto questa Arabia Saudita si è trovata in difficoltà anche con Washington, perché gli americani sono stati quelli che insomma hanno sempre protetto i sauditi, no? È una vecchia storia dai tempi di Roosevelt, quasi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945 ci fu il famoso patto: noi vi diamo il petrolio, dicevano i sauditi, e voi certo. Ci date sicurezza, cioè ci proteggerete. Nel momento stesso in cui l'Iran diventa una potenza regionale di primo piano, liberata dalle sanzioni, ecco che i sauditi hanno perso completamente la testa e hanno cominciato a dibattersi, cercando persino di utilizzare i gruppi jihadisti in Siria, in Iraq, hanno attaccato lo Yemen, adesso si trova in una specie di Vietnam nello Yemen, perché certo. Non escono fuori. Insomma, un paese che sta cercando disperatamente di trovare la sua strada, e che adesso, se come dire, comincia a imboccare la via dell'austerity, comincia anche a incrinare quel patto sociale interno che c'è stato per decenni. Cioè il petrolio paga tutto, voi non dovete lavorare, questo era detto ai sauditi, però in compenso non avrete né democrazia né nient'altro. Ecco, stanno arrivando in un territorio inesplorato i sauditi. In un territorio inesplorato, in un'area molto delicata. Tra l'altro, se rimaniamo a parlare di petrolio, a breve la pacificazione, forse dietro l'angolo, della Libia potrebbe portare ulteriore prodotto sul mercato. Ah, non c'è dubbio. Infatti è chiaro che la Libia è in grado, per esempio, se messa a regime, di fornire il 10-11% dei consumi petroliferi europei, e insomma una pompa di benzina sotto casa, e evidentemente anche questo potrebbe dare fastidio ai sauditi, e non solo a loro, ma anche ad altri paesi del Golfo e del mondo musulmano, che sono i cosiddetti pompieri incendiari, cioè quelli che dicono di voler la pace ma poi fomentano le fazioni libiche. Perfetto, grazie ad Alberto Negri, collega del Sole 24 Ore. Ci fermiamo. Il traffico. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo insieme per l'ultima parte di Focus Economia. È stato diffuso oggi l'annuario statistico dell'Istat. Il documento tocca diversi argomenti, dall'ambiente all'andamento del mercato del lavoro, dalla sanità alla finanza pubblica. Dal rapporto è emerso che l'occupazione sale al 55,7%, più 0,2%, inoltre sono 3,6 milioni gli inattivi potenzialmente impiegabili. La pressione fiscale nel 2014 è stata del 43,4%, 4%, ai massimi nell'Unione Europea. Cresce anche la soddisfazione dei cittadini per la propria condizione economica, aumenta di 4 punti percentuali passando dal 40 al 44%. Insomma, un annuario statistico che fotografa a 360 gradi l'andamento del paese. Ne parliamo con Linda Laura Sabbadini, che dirige il Dipartimento per le Statistiche Sociali ed Ambientali dell'Istat. Buonasera. Buonasera a voi. Sabbadini, ci sono tanti aspetti da considerare in questo annuario statistico: il fisco, l'occupazione. Il dato, seppure scontato, che però vorrei subito affrontare con lei, è quello relativo all'istruzione. Sembra scontato, ma mi piace ribadirlo: l'occupazione sale al crescere dell'istruzione e passa dal 28% di chi ha solo il titolo elementare al 75,5% dei laureati. Un dato che credo sia ben presente sui tavoli importanti del governo di Palazzo Chigi, questo per ribadire quanto l'istruzione sia importante anche in una visione di lungo periodo per creare nuova occupazione. Assolutamente, molto importante, anche perché nel nostro paese si è diffuso anche un po' uno stereotipo per un certo periodo, e cioè che poi laurearsi tutto sommato non serve. In realtà non è proprio così, perché quello che è successo durante questo periodo di crisi è proprio stato che le persone con titolo di studio più alto, anche tra i giovani, i laureati, sono quelli che in qualche modo sono riusciti a proteggersi di più dalla crisi. Questo non vuol dire che i laureati non abbiano perso il lavoro, l'hanno perso, ma l'hanno perso in una misura più bassa di coloro che non avevano titoli di studio più alti o anche degli stessi diplomati, e questo anche tra i giovani. Quindi questo è un messaggio fondamentale, tanto più che il nostro è un paese che ha una percentuale tra i 30 e i 34 anni di laureati che è molto più bassa di quella europea, e noi abbiamo assolutamente bisogno di far crescere il nostro indicatore e di recuperare questo svantaggio che abbiamo nei confronti dell'Europa. Quindi bisogna essere coscienti che laurearsi serve e è uno strumento in più per difendersi dai periodi di crisi. Certo, non tutti i laureati poi riescono a trovare, certo, il lavoro, no, che vorrebbero, per il quale hanno studiato. Esatto, abbiamo una percentuale che è più alta anche di quella europea di persone che trovano un lavoro che non è adeguato, diciamo, al loro titolo di studio, soprattutto tra i laureati. Però diciamo che rispetto alla disoccupazione diventa un elemento realmente di protezione. Quindi il livello di istruzione, è evidente, incide sulla percentuale degli occupati. Un altro aspetto molto interessante dell'annuario statistico, perché poi parliamo sempre di occupati o di disoccupati, in questo caso l'annuario statistico ci dice che c'è una zona grigia dell'inattività nella quale rientrano oltre 3 milioni e mezzo di persone, un'area che cresce rispetto al 2013 e il 2014, ovvero queste sono persone che, pur classificate come inattive, potrebbero però risultare impiegabili, ovvero quali persone dobbiamo immaginare vi siano in questo bacino? Stiamo parlando con Linda Laura Sabbadini dell'Istat. Allora, qui ci sono infatti un segmento molto variegato, perché va da un segmento di persone che non cercano lavoro e non vogliono lavorare, per esempio, che ne so, casalinghe del sud o casalinghe immigrate, tipo soprattutto in famiglie di marocchini o di albanesi, dove la divisione dei ruoli è molto tradizionale, la donna tendenzialmente non lavora e svolge un ruolo tradizionale in famiglia, no, solo di prendersi cura dei propri figli. Ma c'è tutto un segmento che è molto vicino all'area della disoccupazione, per esempio quello dei cosiddetti scoraggiati, tra cui ci sono molte donne del sud, che è un segmento di persone, anche giovani, che vorrebbero lavorare ma sono scoraggiate dal fatto che non trovano il lavoro. Al sud, per esempio, questa è una fascia molto ampia, perché soprattutto le donne si trovano a competere con gli stessi uomini che sono stati particolarmente colpiti dagli effetti della crisi. Alcune donne, molte donne di status sociale basso, hanno reagito a questa perdita del lavoro, magari del loro compagno, trovando a loro volta lavoro. E infatti la crisi per le donne, diciamo, ha avuto un impatto minore di quanto non sia stato per gli uomini, però comunque lo scoraggiamento è un elemento che può agire, quindi questo è un pezzo di inattivi, è più vicino ai disoccupati, perché in realtà vorrebbe lavorare, però per essere disoccupato tu ti devi essere attivato, devi certo. averlo cercato questo lavoro, e invece lo scoraggiato smette di cercarlo. Quindi persone che si autoescludono in pratica dal però, mondo del lavoro. Diciamo che si autoescludono di solito di più nei momenti in cui è più difficile trovarlo un lavoro, in cui incontrano maggiori difficoltà, mentre invece è chiaro che nei momenti in cui si percepisce più fiducia, si percepisce che è più facile trovare il lavoro, magari noi potremmo trovarci a un certo punto che il tasso di occupazione cresce, e cresce nello stesso tempo anche la disoccupazione, semplicemente perché una parte di queste persone si rimette in moto, logicamente, cercarlo attivamente, capito? Assolutamente. Gente che quindi prima si era autoesclusa dal mondo del lavoro, vedendo che l'economia riprende, si certo. riaffaccia al mondo, tra virgolette, per certo. trovare lavoro. C'è una relazione tra questi cambiamenti nell'ambito del mondo del lavoro e la fiducia che poi sempre l'Istat indica per consumatori ed imprese? C'è una relazione o sono due mondi separati? No, vabbè, è chiaro che le relazioni ci sono, nel senso che poi gli indici di fiducia, gli indici di soddisfazione si modificano anche in funzione di questo, quando si percepisce che poi la situazione sta migliorando complessivamente, no, all'interno del paese e quindi anche nei confronti del mercato del lavoro. Quello che va detto è che noi adesso stiamo in una situazione un po' particolare, i dati che abbiamo diffuso riguardano in particolare il 2014, che ricordiamoci venivamo da un anno terribile che è stato il 13. Il 2013 certo. è stato un anno di crisi fortissimo sul fronte proprio della perdita di occupazione. Il 2014 ha interrotto questa emorragia e ha dato dei segnali positivi. Abbiamo chiuso con un incremento non molto forte, però con un incremento che ovviamente ancora non ci ha fatto ritornare ai livelli pre-crisi. E nel 2015 questa tendenza all'incremento è continuata sia nel primo che nel secondo che nel terzo trimestre del 2015. L'ultimo dato, quello che abbiamo dato su ottobre, è stato un dato che ci ha segnato, diciamo, un segno meno sul tasso d'occupazione. Certo. Dovremo vedere ovviamente quello che succede, che succederà in particolare sul fronte, diciamo, quando daremo i dati, diciamo, a gennaio, per capire quello che sta succedendo. Però la cosa interessante che è venuta fuori è che mentre nel 2014 quella ripresa, anche se debole, era tutta concentrata nel centro-nord, quindi il sud ha continuato a allontanarsi dalla situazione. Certo, quindi rimane indietro rispetto al nord. Mi scusi se le metto fretta, ma stiamo in chiusura. Daremo spazio nelle prossime puntate di nuovo all'Istat. Grazie a Linda Laura Sabbadini, che dirige il Dipartimento per le Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat. Ringrazio Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma, Alessandro Chiappini e Roberta Frisani in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24. La passione si sente.